qualche notizia arriva anche qui faticosamente sulla situazione interna, soprattutto sulle mobilitazioni. E quindi innanzitutto ti volevamo chiedere, siccome sabato scorso c'è stata una grande manifestazione a Salonicco in occasione della presenza di Papandreou al Festival Internazionale, no? Se ci fai un pochino, ci dai un po' un quadro di quello che è stata questa manifestazione. Soprattutto abbiamo saputo che ci sono stati numerosi arresti, decine di arresti, quindi volevamo un po' sapere da te qual è la situazione attuale, quanti sono stati confermati. Sì, alla manifestazione di Salonicco hanno partecipato migliaia di persone venute da tutta la Grecia. Scontri ci sono stati abbastanza forti, che reazioni della polizia con lacrimogeni eccetera eccetera, cose che non hanno fatto vedere neanche alla televisione, soprattutto dai tassisti. I tassisti sono in convergenza con il governo per il fatto che vogliono liberalizzare il lavoro e dare tante licenze con prezzo irrisorio rispetto a quello che hanno pagato i proprietari di tassi che hanno in proprietà, e di conseguenza ci sono stati degli scontri fortissimi. Sono stati numerosi arresti, tantissimi, hanno parlato di 300 arresti, i quali più o meno aspettano, va bene, più o meno tutti sono liberi in questo momento, perché non è che possono tenerli in carcere, le carceri greche sono piene, stracolme, adesso ci saranno dei processi, in futuro vediamo un po' come va a finire. Sì, e poi comunque io mi ricordo che c'era stato sì questo corteo dei tassisti, che fra l'altro avevano chiesto comunque anche, diciamo, provvedimenti al di là del prezzo delle licenze, provvedimenti che tenessero conto nelle varie città della densità di popolazione e del flusso turistico. Certo, non certo. Sono state accettate queste modifiche, certo. Diciamo? No, assolutamente no, cioè il ministro non vuole accettare niente di queste cose qua. E di conseguenza anche questa settimana ci saranno dei scioperi molto forti ad Atene e in tutte le città greche. Senti, da parte dei tassisti. Come nello stesso identico modo hanno detto che liberalizzavano il lavoro dei camionisti eccetera eccetera, e adesso riprenderanno anche i camionisti a scioperare. Ah, ecco, quindi una situazione anche difficile sul piano logistico. Senti, poi comunque c'erano anche un corteo dei sindacati e uno degli studenti, alla luce di questa riforma dell'istruzione che ormai è stata varata anche col voto del partito di destra Laos e con Nuova Democrazia. Certo. Il discorso è che loro è da tanto tempo che volevano in qualche modo espellere dalle università gli studenti, non fisicamente ma come attività politica eccetera eccetera. Di conseguenza in Grecia dal 1974 in poi, da quando sono entrati nel Politecnico e alla facoltà di legge i carri armati e la polizia hanno massacrato la gente, c'era una legge in vigore secondo la quale per nessun motivo la polizia poteva entrare nelle varie facoltà. Questa legge nuova che ha fatto il Partito Socialista in collaborazione con le destre ha accolto questa richiesta delle destre di non far tenere in vigore questa legge del non intervento della polizia all'interno delle facoltà universitarie. Certo, era una specie di diritto d'asilo, no? Che ricordiamo era appunto entrato in vigore dopo l'intervento che ricordavi tu della giunta militare, no? All'interno del Politecnico di Atene. Certo. Con diversi morti. Gli studenti non accettano questa cosa, ma soprattutto non accettano anche il fatto che le università, la legge nuova parla soprattutto di questa cosa, dice anche che gli studenti che partecipavano ai comitati di gestione dell'università non hanno più questo diritto. Di conseguenza varie facoltà in tutta la Grecia sono occupate, Gli studenti anche ieri hanno fatto una grossa manifestazione nel centro di Atene e nella prossima settimana ci saranno di nuovo manifestazioni e così via. Sì, senti, quindi ci vuoi, al di là di questo che hai detto, qualche altra notizia su questa riforma dell'università? So che sono stati comunque tagliati i fondi, ci sono anche delle restrizioni nei confronti, diciamo, delle varie, dei vari sussidi, no, che venivano dati agli studenti. Ma certo, questi erano diritti che hanno acquisito con varie lotte di studenti universitari, e adesso che l'economia greca non va bene, tutti questi diritti sono stati tagliati. Quindi studiare sarà pensate, ancora più difficile che in passato? Ma abbiamo sempre detto che la cultura è un fatto di elite. Nella società capitalista questa cosa si vede chiaramente, e soprattutto in Grecia in questo momento, che i nostri governanti si professano socialisti, ma la cultura sarà sempre più dell'elite. Pensate che in questo momento sono iniziate le scuole di obbligo e non ci sono libri neanche per i bambini delle elementari, perché si va avanti con fotocopie di vari libri. Non hanno distribuito i libri come tutti gli anni agli studenti delle elementari e delle medie dell'università. Ecco, quindi si parlava che li avrebbero distribuiti a novembre, ma alla luce del blocco anche per adesso di questa ultima tranche di finanziamento da parte dell'Unione Europea, se continua così non saranno distribuiti mai. Guarda, oggi i giornali sia i più autorevoli della Grecia, praticamente Kathimerini, l'Estero-TP, eccetera, nella Kathimerini in prima pagina c'è scritto che all'ultimo momento ci sarà il contributo dell'unità negli ultimi 5 minuti si vedrà se avremo la sesta dose dell'aiuto economico finanziario. E certo, sempre comunque. Pensate un pochettino in che situazione. Certo, sempre all'indomani. Didi. Pronto? Sì, parlo. No, dicevo, e pensate che il vice ministro dell'economia aveva detto pubblicamente che il governo ha la possibilità di soddisfare la richiesta economica dello Stato fino al 15 di ottobre. Quindi nemmeno gli stipendi anche sono in pericolo? E certo, se non ci danno i soldi dall'Europa non avrei potuto pagare novembre, cioè praticamente la Greek Fund. E questo piano, che ci puoi dire di questo piano di licenziamenti che parla del 10% di licenziamenti all'interno del settore pubblico? Questa è una storia che è conseguente delle decisioni che ha preso il governo tanti anni fa. Pensate, e ve lo dirò, che forse riuscirete a capire la situazione. Basta dirvi che 3 giorni fa il ministro dell'economia ha licenziato tutto il comitato centrale dell'Istat, della società praticamente che faceva l'Istat, mi sembra che anche in italiano. Sì, l'Ufficio Nazionale di Statistica, diciamo, sì. Sì, proprio così. Ed è uscita una professoressa dell'università che era nel comitato centrale lì, la quale ha detto chiaramente in tutti i toni che nel 2009 hanno aumentato il disavanzo della Grecia dal 12% che era veramente al 15% per poter prendere le misure che volevano contro i lavoratori. Ci hanno detto bugie sia alla comunità europea, sia al Fondo Monetario Internazionale, sia alla popolazione greca, che per poter praticamente prendere queste misure. Cioè, hanno anche mentito. Stamattina che è uscita alle TV questa signora qua urlava che li hanno costretti, mentre davano i risultati del loro lavoro giustamente al ministro dell'economia, e l'ex ministro dell'economia ha detto bugie, e anche se lei si è messa in contatto con il tedesco Reichmann, non so come lo chiamava, responsabile della comunità europea sul disavanzo greco, e anche lui gli ha detto no, aumentiamo, non dichiarate questo 12%, lo faremo 15% per prendere le misure più drastiche contro la popolazione greca. Ah, ho capito. Beh, interessante questa cosa, certo. In questo momento, non so se avete saputo, parlavamo dei impiegati dello Stato, no? Pensate che impiegati dello Stato con una legge che stanno passando, che si presenterà in questi giorni, vogliono diminuire gli impiegati dello Stato del 10%. Vogliono raggruppare varie organizzazioni che lavorano in varie organizzazioni che lavorano per il pubblico impiego, no? E parlano di riserva lavorativa, cioè praticamente tanti di loro vanno in riserva. Pensate, operai impiegati di 50 anni che vanno in riserva perderanno il loro stipendio andrà al 60% e avranno in futuro una pensione che non sanno quanto cavolo la prenderanno. Perciò in questo momento c'è un fuggi generale dai vari ministeri greci. Che vuol dire? In questo momento ci sono migliaia di impiegati che stanno dando le dimissioni, vanno in pensione. Già ieri erano 1900, se posso, ieri no? Erano 4000. Poi con una disoccupazione giovanile mi pare al 30% oppure di più, cioè una famiglia, questo sicuramente è sempre di più. Ma è sempre di più, perché qua si sta parlando di una disoccupazione della popolazione greca diminuita, perché ci sono tanti greci che lavorano nell'estate nelle isole e di conseguenza hanno un lavoro di 3-4 mesi e di conseguenza loro vengono presi come lavoratori. E quindi questo, sono lavoratori disoccupati. Certo, questo sfalsa le cifre ovviamente. E certo. Senti Tasso, per rimanere alla questione dei lavoratori del pubblico, l'orario a 40 ore è effettivo adesso? È aumentato, no? Sapevo queste. Certo, l'hanno aumentato. E io sapevo che avevano cominciato uno sciopero bianco nel settore pubblico contro questa misura. Sai qual è adesso la situazione? La situazione è che lo sciopero bianco più o meno c'è dappertutto, in tutte le organizzazioni del pubblico impiego. Se vai a chiedere un certificato, se vuoi fare una licenza per le costruzioni, se qualsiasi cosa ritardano a non finire, ti chiedono delle cose per far passare il tempo, non trovi mai gli impiegati. Ovviamente c'è sto sciopero bianco, ma c'è anche questo fuggi generale dal governo, dal pubblico impiego. Senti, un'altra cosa volevo chiederti, ho visto che nei giorni scorsi a Salonicco, no, nell'ambito sempre di questa manifestazione, che comunque ricordiamo insomma, è una manifestazione molto importante in Grecia, ci sono state conferenze stampa sia del segretario di Syriza che della segretaria del QQE. E allo stato attuale quali sono le proposte di questa sinistra, diciamo, di opposizione parlamentare? Ma il Partito Comunista Greco era sempre contro l'entrata della Grecia nella comunità europea. E adesso quindi sono contro il mnemonio, tutte e due, soprattutto per le misure che ha annunciato il ministro dell'economia, che sono misure a tappeto praticamente contro la popolazione, dicendo che avrebbe messo la tassa. Lo sapete che adesso ha messo la tassa per tutti i lavoratori liberi di 300 euro per ognuno, cioè per gli ingegneri, per gli avvocati, per i per tutti quelli che fanno un lavoro autonomo dovranno pagare entro la fine di questo mese 300 euro ognuno in sostegno all'economia nazionale. Quindi a prescindere dal reddito? Cioè qualsiasi reddito certo. Abbia? Certo, è un tandem che hanno deciso. E in questo momento in tutte le case dei lavoratori autonomi arriva dal Ministero dell'Economia un foglio che dobbiamo pagare 300 euro con lo sconto, dice, se la paghi direttamente al Ministero dell'Economia, agli uffici del Ministero dell'Economia ti fanno lo sconto del 15 euro. Senti, che cifra sei? Allora, sei in grado di dirmi più o meno che cifra pensa di raccogliere in questo modo il governo? Ma allora vorrebbero raccogliere circa 1 miliardo, però poi hanno visto che i conti non tornano e di conseguenza il ministro dell'economia ha dichiarato a Salonico che prevedevano una misura drastica sulle costruzioni, cioè praticamente sugli appartamenti eccetera eccetera, sulla proprietà. In questo momento in Grecia, come sapete, praticamente il 90% della gente è proprietaria di una casa, anche di una seconda casa in campagna o alle isole eccetera. Hanno detto che avrebbero pagato tutti 0,50 fino a 10 euro per ogni metro quadrato di proprietà. E poi entro una settimana hanno cambiato tutto e adesso è aumentato da 0,50 a 20 euro a metro di proprietà. Io ero rimasta a 4 euro, quindi adesso sono addirittura 20 euro a metro quadro? Sì, dipende dalle varie praticamente dalla tipologia, regioni, dalle varie zone eccetera eccetera. Sì, ho capito. Senti, cioè, praticamente Didi, cambiano tutte le cose come gli conviene, cioè ogni giorno dicono una cosa, poi la ricambiano, poi diceva sto ministro, cioè qua c'è da ridere, se uno guarda le TV greche, fanno vedere sto ministro che 5 mesi fa diceva che non è lecito mettere sui conti correnti per la luce, mettere anche tasse su quelle cose lì eccetera eccetera. Pensate che io pago, per esempio, dico il mio esempio, io pago 10 euro per la luce e 40 euro per la spazzatura, per tasse sul comune, per tasse sulle TV eccetera eccetera. Adesso su questi conti vogliono mettere anche questa entrata che riguarda le case, no? Sono usciti gli operai della nostra Enel che hanno detto che questo non lo permetteranno, perché l'Enel non può accettare di prendere i soldi da chi non ha soldi praticamente. Hanno buttato tanto di quel fango a spume sugli operai della Enel che è una cosa vergognosa. Senti, subito dopo volevo dire soltanto questo, che quando hanno capito che ci sarà una grossa difficoltà nel raccogliere questi 4 miliardi che stanno dicendo, 2 miliardi e mezzo però, mettendo la tassa su tutti gli appartamenti, le case eccetera eccetera, pensano di tirare fuori circa 4 miliardi. Visto che hanno visto la reazione degli operai dell'Enel e hanno visto anche la reazione, perché sia il Partito Comunista Greco sia il Siriza hanno invitato la gente di non pagare questa legge, di organizzarsi per non pagare questa legge. Appena hanno visto questo hanno cominciato a dire che se l'Enel o le altre società che danno la luce alle case, hanno i contratti diversi, se non raccoglieranno questi soldi li faranno pagare una multa del 25%. capiscono che insomma è molto difficile raccogliere questi soldi. Certo, anche se c'è la diciamo la solidarietà dei lavoratori dell'azienda elettrica, diciamo, poi no? Sarà complicato. Certo. Senti, e il livello delle mobilitazioni? So che il 14 c'è stata, diciamo, la prima grossa riunione a Piazza Sintagma, o sbaglio? Sì. E com'è la situazione adesso? Anche lì è intervenuta subito la polizia. Ah. È intervenuta la polizia subito dicendo che la gente impediva il transito delle macchine da Piazza Sindaco, cioè fa ridere, trovano delle scuse che fanno ridere la gente e la rabbia aumenta, sì, aumenta sempre la rabbia, come andrà a finire? Senti, quindi mobilitazioni ancora degli studenti anche, no? Questa settimana continuano. Niente, le occupazioni. Niente, una manifestazione dei studenti. Il centro era tutto chiuso dalla loro manifestazione. Adesso la prossima settimana vedremo come andrà a finire, perché anche i tassisti faranno lo sciopero, anche gli studenti fanno lo sciopero, anche i lavoratori nel pubblico impiego fanno lo sciopero. Vedremo. Vedremo. Va bene, Tasso, io ti ringrazio tanto per adesso e che ti devo dire? In bocca al lupo. Bene, e ci sentiamo. E spero di non avere gli stessi risultati anche in Italia, perché veniamo a sapere che anche in Italia cominciano a prendere misure su queste cose qua. Come no, infatti, sembra una strada in comune. Va bene, ti ringraziamo tantissimo, ci sentiremo sicuramente. Ciao, un abbraccio, ciao Tasso. Bene, ciao.